quello che volete ottenere, quello che avete fatto, i vari progetti. Insomma, questo per me è importante, perché io vi ho conosciuti attraverso alcuni compagni, vi ho visti in piazza, e vorrei che più persone possibile conoscessero il vostro impegno e quello che fate, perché io penso che sia molto importante, il mio giudizio poi personale, ma penso che sia condiviso da tantissima gente, soprattutto chi è sceso in piazza in questi ultimi mesi per la Palestina. Buongiorno a tutte e tutti, sono Fabio, uno del gruppo iniziale dei sanitari per Gaza di Bologna. Ci siamo incontrati come gruppo all'indomani dei bombardamenti e della distruzione della striscia di Gaza, colpiti nel nostro essere sanitari soprattutto dalla devastazione, che poi è diventata pressoché totale e completa, delle strutture sanitarie, gli ospedali in particolare, le cliniche e quant'altro, e dell'uccisione sistematica degli operatori sanitari. Per esempio, ad aprile del 2024 gli operatori sanitari uccisi erano circa 400, adesso sono più che quadruplicati, siamo ben oltre a 1700. Ricordo che la distruzione degli ospedali e il bombardamento degli ospedali è proibito dalle convenzioni internazionali, la Convenzione di Ginevra e lo Statuto di Roma, nato all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, per cui questo è riconosciuto come essere un crimine di guerra. Gli ospedali non si possono bombardare. Il nostro piccolo gruppo inizialmente ha cercato di sensibilizzare altri sanitari attraverso una raccolta di firme che chiedeva la cessazione del fuoco, la riapertura dei canali umanitari e di fornitura di materiale medico, e anche la possibilità che studenti palestinesi possano accedere in Italia e a Bologna a corsi di studio universitari in scienze infermieristiche e in medicina, in quanto a Gaza tutte le università sono state distrutte, non c'è più possibilità di fare corsi universitari, ma solo la speranza di sopravvivere. Dopo queste iniziative, che sono culminate anche con la costruzione di un convegno nazionale e internazionale all'Ospedale Maggiore sulla protezione dei sanitari durante i conflitti, abbiamo ricevuto una richiesta di aiuto per un gruppo di palestinesi con bambini e adolescenti arrivati in maniera rocambolesca a Trieste, amputati. Ci siamo dati da fare per occuparci di questi bambini e ragazzi. E anche grazie all'aiuto di altre associazioni di volontariato come la Caritas, al supporto all'inizio del Comune di Budrio e successivamente al grande aiuto dell'ASP, azienda servizi alla persona del Comune di Bologna, siamo riusciti a far ottenere a questi ragazzi, a questi bambini, l'accesso al SAI. Il SAI è il sistema accoglienza integrato che permette ai rifugiati di avere un'assistenza medica col Servizio Sanitario Nazionale, una casa, un piccolo riconoscimento economico e l'iscrizione alla scuola per tutti i minori. Ora queste famiglie sono tutte a Bologna, qualcheduna in provincia, maggior parte nel capoluogo, e hanno ottenuto una casa e quant'altro. Il percorso iniziale non è stato facile, ma adesso la stragrande maggioranza dei palestinesi arrivati a Bologna, che sono circa 150, sono tutti protetti dal sistema SAI. C'è una differenza, perché i palestinesi che arrivano per motivi di evacuazione medica sono inizialmente seguiti dalla prefettura, e quindi finché non finiscono il percorso sanitario, medico, in strutture ospedaliere, sono seguiti dalla prefettura e solo in un secondo momento dal SAI. Come gruppo di sanitari, dopo aver fatto questa raccolta firme e la sensibilizzazione ai colleghi, in seguito alla mobilizzazione nazionale e internazionale del digiuno per Gaza, che ha fatto sì che moltissimi ospedali, moltissimi ospedalieri, moltissime strutture si sono schierati a favore del digiuno per Gaza, il numero dei sanitari sensibilizzati è cresciuto notevolmente, e poi in particolare anche a seguito delle manifestazioni in solidarietà con la flottiglia e la richiesta di cessazione del fuoco. Ora il gruppo bolognese è diventato molto più ampio, con molte più persone che si danno da fare, e continuerà la propria attività su vari settori. C'è chi seguirà soprattutto la campagna di boicottaggio Teva, un'industria farmaceutica israeliana molto presenti sul nostro territorio, altri che si occuperanno di contatti con altre associazioni di protezione per la popolazione palestinese, come gli insegnanti per Gaza, altri che seguiranno soprattutto il problema dell'assistenza, sia in senso medico qualora ci fosse bisogno, e soprattutto per problematiche psicologiche eventuali. Il gruppo adesso è diventato molto più attivo e ricordo solo che le campagne boicottaggio hanno una loro importanza, perché è storia che il Sudafrica è riuscito a superare il regime di apartheid anche grazie a campagne di boicottaggio nazionali e internazionali, per cui ci auguriamo che possa essere utile anche in questa situazione. Vi ringrazio, buona giornata. E la seconda domanda proprio sul boicottaggio di Teva, questa multinazionale farmaceutica israeliana. Voi siete conosciuti soprattutto per questa campagna che state conducendo. Parlaci di questa campagna, delle motivazioni di questa campagna e come si sta svolgendo questa campagna del boicottaggio di Teva. Tanto grazie, io sono Alice, una componente dei sanitari per Gaza. E Teva è, come diceva prima Fabio, il mio collega, un'azienda farmaceutica che ha sede in Israele, sede legale anche in Israele, e la campagna di boicottaggio è partita in realtà insieme a BDS, e le motivazioni sono diverse. Abbiamo osservato che Teva effettivamente, in maniera sia indiretta che indiretta, appoggia la politica genocidaria di Israele. Basti pensare che al suo interno ha dei membri che hanno fatto parte dell'IDF o che banalmente paghi le tasse al governo israeliano, e quindi è proprio un finanziamento chiaro e diretto. In più stiamo facendo diversi lavori, un lavoro di ricerca dove tentiamo insomma di trovare dei dati concreti sul coinvolgimento di Teva stessa. E la campagna si svolge su due livelli. Un livello è un livello istituzionale. Perché? Perché Teva è una delle aziende fornitrici di farmaci generici maggiori presenti nel nostro paese, soprattutto in Emilia Romagna e a Bologna. Come funziona? Funziona che l'Emilia Romagna fa delle convenzioni con delle aziende farmaceutiche tramite dei bandi, delle gare. E Teva risulta essere tendenzialmente la vincitrice. Perché? Perché dei prezzi molto competitivi sul mercato. Essendo una grandissima multinazionale, può permettersi questi prezzi competitivi. Quindi ci ritroviamo sia all'interno degli ospedali che poi nelle farmacie ad avere una distribuzione enorme dei farmaci generici Teva. Quindi questo è un livello alto, regionale, istituzionale, dove ci stiamo muovendo con delle campagne, una campagna che parte da banalmente delle raccolte firme o dei documenti che vengono inviati in regione, dove si chiede vedere che ci sia il profilo di eticità a cui Teva dovrebbe rispondere, ogni azienda che fa contratti con la regione dovrebbe rispondere, e questo profilo di eticità, per i motivi che ho detto prima, verosimilmente non esiste per l'azienda Teva. L'alto livello in cui ci muoviamo per la campagna contro Teva è banalmente locale. Basti pensare il cittadino che va in farmacia e vuole acquistare un farmaco generico. Tendenzialmente quel farmaco è un farmaco Teva, quindi il cittadino che deve essere che è sensibilizzato sulla campagna no Teva è un cittadino che va informato in farmacia e può chiedere il farmaco generico che non sia un farmaco Teva. È chiaro che se è l'unico farmaco disponibile il cittadino deve prendere quel farmaco, quindi abbiamo pensato anche di muoverci in una maniera un pochino prima, un pochino più a monte, ovvero con i medici di medicina generale, facendo anche un appello perché possano sensibilizzare i loro pazienti, ma anche le farmacie stesse. Giusto qualche giorno fa è partita questa campagna davanti alle farmacie con un volantino, con colleghi e colleghe dei sanitari per Gaza, con un volantinaggio che spiegasse cos'è Teva e i motivi per un giusto boicottaggio. Un'altra cosa che stiamo provando a fare anche a livello di sensibilizzazione è cercare di produrre, creare degli eventi che più capillari possibili nel comune di Bologna. Teva è, ripeto, purtroppo un'azienda farmaceutica molto molto grande e, come diceva Fabio, però il boicottaggio che parta già dal basso può in realtà poi portare come obiettivo finale può colpire al fianco il genocidio che ha messo in atto Israele. Terza e ultima domanda, volevamo sapere quali sono i vostri impegni futuri, come pensate di agire e come mandare avanti ancora questo progetto di sanitari per Gaza. Vorremmo capire un attimo sindacalmente quali sono i vostri impegni. E abbiamo visto il 28 scendere in piazza, l'abbiamo visto chiaramente nelle varie manifestazioni per la Palestina. Volevo capire anche il vostro approccio politico, se vi andava di spiegarcelo, anche sindacale, e secondo voi qual è la linea che dovrebbero, visto che voi siete dei lavoratori e siete un gruppo, un collettivo di lavoratori che vi ponete le problematiche di Gaza, secondo voi come il sindacato dovrebbe comportarsi, come i partiti dovrebbero agire in questo caso e quello che si dovrebbe fare anche a livello sia politico che sindacale per la questione di Gaza e in generale contro tutte le guerre che ci sono oggi nel mondo, perché poi alla fine non c'è solamente Gaza, lo sappiamo benissimo. Ecco, volevamo da voi, se avete delle idee a livello progettuale, secondo voi come, visto che siamo in difficoltà e gli ultimi scioperi generali, sia il 28 che voi avete partecipato, ma anche il 12 in cui io sono stato in entrambi, ho visto che purtroppo siamo tornati indietro rispetto alle grandi manifestazioni che ci sono state per la Palestina e contro il governo. Volevo sapere da voi se avete una linea, se avete qualcosa da consigliarci a noi, a tutti i lavoratori, sul vostro punto di vista, come dovrebbero agire i sindacati, i partiti e i movimenti, in questo caso, per riprendere lo spirito del 3 ottobre. Beh, per noi è stato abbastanza naturale riunirci nel momento in cui, come ha già detto Fabio, abbiamo visto una lesione dei diritti fondamentali, in particolare del diritto alla cura. Per un sanitario o una sanitaria che lavora in un ambito ospedaliero, per noi la base è che il diritto di cura sia garantito a tutti e sia accessibile a tutti. Quello che è successo a Gaza per noi è stato un colpo anche a livello deontologico ed etico. Ci siamo organizzati in maniera molto, ripeto, molto naturale a livello nazionale e poi a livello locale, anche se il gruppo è molto giovane, sono molto, molto chiari i nostri obiettivi. Noi vogliamo che si interrompano i bombardamenti, ma non solo sugli ospedali, che si interrompa questa politica genocidaria di Israele, politica che però viene appoggiata anche, lo sappiamo benissimo, da anche le politiche occidentali. E in questo contesto ci siamo mossi proprio nei vari scioperi, nei vari cortei che sono stati nei mesi precedenti, perché crediamo che sia fondamentale creare una rete anche con tutte le altre realtà. E le realtà a noi anche più contingenti sono le realtà dei lavoratori e delle lavoratrici, in quanto lo siamo direttamente anche noi e in quanto anche i docenti, per esempio per Gaza, o gli altri lavoratori e le altre lavoratrici si sono mosse con l'obiettivo comune. Noi siamo un gruppo assolutamente indipendente, quindi non apparteniamo a nessun partito politico, non apparteniamo a nessun sindacato, siamo semplicemente singole persone mosse da singole sensibilità che poi sono rientrate dentro una sensibilità collettiva. È proprio nell'ottica di questa sensibilità collettiva ci siamo sempre mossi e ci stiamo ancora muovendo in rete con obiettivo comune, quello della cessazione del fuoco, della fine del genocidio. La posizione quindi dei sanitari per Gaza relativamente a tutte quelle manifestazioni che possano arrivare a questo obiettivo sicuramente sarà stare accanto a tutte le reti che si possono supportare a vicenda. I nostri progetti futuri sicuramente nell'immediato futuro abbiamo questa campagna di boicottaggio Teva, che è una campagna abbastanza impegnativa e importante a livello nazionale, che facciamo insieme a BDS, su cui ci stiamo concentrando. È auspicabile chiaramente che questa, che finalmente questo, diciamo, risveglio di coscienza nel mondo sanitario, che effettivamente non è così scontato, ma esiste, cioè è una cosa importante, è anche una cosa particolarmente bella, lo dico a livello personale. Magari questo risveglio di coscienze può portare poi anche a movimenti futuri che possano stare a fianco di tutte le guerre, tutte le ingiustizie, come dicevi tu, che noi vediamo oggi nel mondo, perché oggi è Gaza, oggi è il Sudan, domani può essere qualunque altro tipo di paese. In più diciamo l'Ucraina. L'Ucraina, assolutamente. No, certo, da certo. Ma proprio perché siamo indipendenti e trasversali. Noi ci muoviamo basandoci sugli articoli della Costituzione che difendono il diritto alla cura, e proprio per questo motivo noi ci muoveremmo comunque a prescindere. Ci muoviamo già all'interno del sistema sanitario nazionale, che anche questo è un sistema che va difeso, assolutamente, lungi da me voler dire che siamo sotto genocidio o sotto una repressione, diciamo, violenta, coatta e palese. Certo. Però sicuramente abbiamo anche una coscienza nel momento in cui lavoriamo in sistema sanitario nazionale, dove stiamo vedendo dei tagli alla sanità che sono sempre più importanti, sono sistematici, è come se ci fosse una distruzione programmata del sistema sanitario nazionale. Il sistema sanitario nazionale fa parte di questo, dello Stato italiano, è all'interno di una società che vede tante altre realtà. È una realtà, è anche quella sicuramente dei lavoratori e delle lavoratrici, anche quelle sindacali che difendono, proteggono i lavoratori e le lavoratrici. Anche noi abbiamo dei sindacati che ci delegano e ci tutelano, e quello che possono fare tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici è, nell'ambito chiaramente della campagna su Teva, che ormai sta diventando particolarmente pressante, informarsi e sensibilizzare il più possibile. Se invece vogliamo vedere il contesto più ampio, ovvero lotta al genocidio, quello che si può fare come lavoratori e come lavoratrici è sicuramente creare una rete insieme a tutti gli altri movimenti, uno dei quali appunto è quello dei sanitari per Gaza, che sarà sempre a fare a fianco di tutte le persone che si muovono con lo stesso intento, cioè dire stop al genocidio, cercare di boicottare Israele per far arrivare finalmente gli aiuti umanitari, tutti gli strumenti anche ai colleghi che sono in Palestina, che stanno attualmente lavorando lì. Io uso raramente la parola eroi, però essere un medico sulla striscia di Gaza oggi per me identifica quella persona come un eroe, e lo dico da medico. Vero. Che vive in Italia, sa benissimo, tra l'altro lavoro in emergenza, quindi so benissimo cosa vuol dire lavorare in emergenza, ma lavorare in emergenza a Gaza è rischiare la vita tutti i giorni. E chiediamo anche la liberazione di non solo di tutti i medici e i sanitari che sono attualmente stati arrestati da Israele e anche sotto tortura, ma anche di tutti gli altri palestinesi che stanno subendo lo stesso trattamento. Per fare questo, banalmente, abbiamo fatto partire delle petizioni a riguardo, che si possono trovare sulle nostre varie pagine, e già creare una rete per le firme delle petizioni per noi è già tanto. E per tutto il resto sicuramente ci possiamo vedere, il 20 abbiamo l'evento Alcadia Bertasi, che parte alle 5:30 con degli interventi di medicina decoloniale, gli interventi di BDS con noi sanitari relativamente a Teva, seguirà una cena palestinese il cui ricavato sarà devoluto interamente a Medici Senza Frontiere. Chiuderemo la giornata alle 21 con la proiezione di un documentario che è Gaza Doctors Under Attack, che non la BBC ha rifiutato di proiettare, che già informa in maniera abbastanza dettagliata e forse anche un po' cruda quello che è successo al sistema sanitario palestinese sotto attacco genocidario di Israele. Ok, grazie mille Alice. Grazie. Il 20 saremo con voi. Grazie, grazie mille e buona giornata a tutti. Grazie. Il tè più buono lo fanno